B. Ascolta e controlla. Un nuovo servizio la aiuta a organizzare meglio il suo lavoro. La informa prima di confermare un bonifico. La aiuta a programmare i pagamenti. La informa delle nuove promozioni. Pindaro è il sistema che la conosce da sempre. È accanto a lei dal giorno in cui ha aperto il suo conto in banca e, giorno per giorno, segue i suoi passi. Trova tutte le informazioni alla pagina web www.pindaro.it.